Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanelli in redazione per questa puntata di Palla Spicchi, in cui è venuto a trovarci per la prima volta, e spero proprio non l'unica, l'allenatore che ha salvato Biella a gratis, Massimo Cancellieri. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ovviamente Coach Dan Peterson, ciao coach. Grazie Cancel, ciao a tutti. Ciao. Senti coach, l'ultima volta che ci siamo sentiti, venerdì scorso, l'umore era in cantina, 0-1 contro Sassari, qualche incertezza e tanta delusione. È un po' cambiato il mondo, sei in semifinale. Guarda, stiamo migliorando, perché per la verità adesso si può dire, nella prima partita c'è appena infortunato Jonas Mačiulis, Mancinelli dopo una settimana di febbre non era 100%, Kobe Carroll la prima partita che giocava, cioè, c'erano tre o quattro cose insieme che hanno portato veramente la squadra a essere sotto tono. Poi abbiamo meritato di perdere, questo è sicuro, e loro una grandissima partita, abbiamo perso per un punto e loro hanno avuto due canestri da tre contro il tabellone, cioè per dire, non voglio dire fortunato, ma sono cose che non succedono ogni giorno, ok? Quindi poi dopo siamo cresciuti, quindi la sconfitta ci ha portato veramente di avere una mentalità più compatta, non so come dire, e stiamo giocando meglio in difesa e meglio in attacco. Siete entrati nei playoff, via. Yeah, avete cominciato i playoff con una partita di ritardo. Probabilmente così. Massimo, come vedi l'Armani? Concordo pienamente con quello che ha detto il coach, nel senso che nella serie sono cresciuti, e soprattutto secondo me l'inserimento di Kobe Carl è stato più semplice del previsto. Lui è un grande giocatore e penso che sia il coach che i suoi compagni l'hanno messo in condizioni di capire immediatamente qual era il suo ruolo. Lui si è preso più responsabilità e in più ha continuato a dare insieme agli altri una solidità difensiva che fa di Milano la squadra che è, oltre al talento in attacco, loro secondo me difensivamente adesso sono molto solidi. Sì, mi sembra un giocatore importante, coach, pazzescamente importante Kobe Carl, perché è uno che ha i tempi della squadra, i tempi del passaggio in testa. Oh, guarda, è figlio di un allenatore, quindi è come Mike D'Antoni, tanto per dire, suo padre era il super allenatore, George Carl, ovviamente lì nei Denver Nuggets. È un ragazzo che in attacco non ferma la palla, li chiamano in inglese ball stopper, la palla va a lui, si ferma per tre secondi mentre lui cerca la soluzione individuale. Kobe no, Kobe prende la palla in un decimo di secondo, la sposta un altro compagno che è dall'altra parte del campo e la difesa va in crisi, perché non possono recuperare con i piedi la stessa velocità che va una palla passata veramente fortemente. E quindi lui gioca per i compagni, occhi aperti per tutti i compagni, e poi in difesa, uno, è un grande atleta, due, è un grande difensore, tre, grande intelligenza cestistica, e quindi lui non lascia niente a nessuno, cioè proprio, e gioca nel contesto della squadra. Adesso con lui abbiamo in quintetto cinque grandissimi, per me, difensori: Ibi Jabber, Kobe Carroll, David Hawkins, Stefano Mancinelli e Benjamin Eze. Poi portiamo dalla panchina altri due, che sono Marco Mordente e Mason Rocca, e udite, anche Lynn Greer sta migliorando in difesa. Quindi noi, questa è la nostra identità adesso, che dobbiamo difendere come dei pazzi e poi fare quello che possiamo fare in attacco. C'è Massimo Cancellieri che annuiva, Massimo? Decisamente, se pensi al loro quintetto, appunto parlando soprattutto dell'aspetto difensivo, da Jabber a Eze, non trovi uno che non possa esprimere fisicità, ma soprattutto anche attitudine e voglia, perché poi quello, secondo me, al di là delle caratteristiche di squadra, se individualmente tutti sono mentalizzati a difendere, questo è un grande vantaggio anche per un allenatore. E quindi, e poi anche dalla panchina, per noi Lynn Greer potrebbe essere uno dei migliori difensori, per cui ragazzi, però io muoio dalla voglia di chiedervi, anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, coach Massimo Cancellieri, io muoio dalla voglia di chiedervi se la vittoria di Bologna in gara 3 ha detto che Siena è attaccabile in una serie lunga, magari da Milano, magari da Cantù, magari da Treviso. E questo qui. Ovviamente Bologna ha tirato fuori una grandissima partita, ha trovato Siena magari una serata non particolarmente efficace, e quindi ci vogliono queste due componenti per battere Siena, questo lo sappiamo tutti, ok? Però io non credo che nessuna squadra sia imbattibile, cioè Siena è più difficile battere di tutti, questo è pacifico, il campionato non mente, questa qui la classifica è quella che è, ma io francamente non sto pensando a Siena, adesso sto pensando, sì, ho ben altro da pensare adesso, ne parliamo di Siena se siamo fortunati a passare con Cantù, e non sarà per niente facile perché loro sono tosti. Coach, cancelliere, attaccabile Siena o no? In una serie? Secondo me, come al solito, più le serie sono lunghe in generale, più vince la più forte. Siena sicuramente ha dei punti deboli, spesso li ha mostrati, però ha una grande capacità. Quali vedi più evidenti? Ma i loro punti deboli sono che devono essere, secondo me, devono poter difendere come hanno sempre fatto. Sì. E in attacco, fermando alcuni meccanismi, magari loro possono andare in difficoltà, per cui se le partite cominciano a essere a tanti punti, loro possono andare in difficoltà contro le squadre di pari livello, se è ben chiaro. Però hanno una grande capacità rispetto a tutte le altre squadre, che nel giro di uno o due giorni o di una partita comunque loro riescono a girare completamente la loro inerzia. Guarda, vedasi gara 3, gara 4 di Bologna, cioè nel senso, a gara 3 di Bologna, secondo me loro, forti delle prime due già vinte, secondo me abbastanza agevolmente, la terza hanno detto, anche se loro hanno una reazione emotiva, noi la vinciamo. Questo non è successo, ma a gara 4 era tutta un'altra faccia. Ecco, loro nel giro di due partite, anche di due giorni, di una partita, nel giro di pochissimo, riescono a cambiare proprio. Hanno nel DNA una capacità di capire come si riesca a vincere una partita in qualsiasi modo, se bisogna attaccare, difendere, essere aggressivi, essere attendisti, hanno controllo, ecco, della situazione in campo. La dimostrazione più clamorosa l'abbiamo vista con Olympiacos, naturalmente. Coach, io voglio sapere come stai preparando i derby con Cantù, che lunedì iniziano. Preparando, ieri abbiamo fatto un giorno di pausa, cioè abbiamo giocato martedì ieri, un giorno di allenamento piuttosto normale, cioè un allenamento normale dopo un giorno di pausa con delle partitelle, quelle cose lì, anche di grande intensità, di fuochi artificiali, cioè proprio la gente non voleva perdere le partitelle, che è sempre un buon segno. Oggi un altro allenamento, sabato, cioè domani un altro ancora, domenica un altro ancora, cioè abbastanza normale, non è che stiamo a questo punto qui, siamo quasi a giugno, non è che io vado a inventare qualcosa di nuovo, assolutamente no, non ci penso neanche, cerchiamo di fare quello che sappiamo fare. Coach, in bocca al lupo, ci sentiamo venerdì. Crepe al lupo, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi cominciamo a parlare anche con gli ascoltatori eventualmente. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666 e uno c'è anche per Coach Canch. Un saluto e un ringraziamento. Se siamo ancora in Serie A, l'anno prossimo speriamo di soffrire meno, scrive Nico. Da Biella, io immagino. Sì, immagino di sì. Chi ha sofferto con noi sa cosa significa. Gli ultimi due anni mica facili, questi finali di campionato. Palla spicchi. Massimo Cancellieri qui con noi. Massimo, com'è giocare? Poi parliamo anche con Giuseppe da Napoli, che è il primo ascoltatore, lo coinvolgiamo subito, però io voglio sapere da te com'è giocare una partita da 500.000 euro, condannando alla cassa la squadra della tua città, cioè Teramo. Com'è? Quanta pressione c'era in quella partita? Ecco, il lavoro che abbiamo fatto è esattamente cercare di giocarla come un'altra partita, cioè sapendo che dovevamo vincerla, non parlando dei giocatori, chiaramente, del fatto che il premio di risultato o wild card fosse anche un'ulteriore possibilità, anche la società è stata brava a non farlo pesare, a non parlarne con me soprattutto, ma anche con i giocatori, soprattutto con i giocatori. L'abbiamo giocata, tanto c'erano due giorni per prepararla, per cui siamo andati direttamente a Montegranaro, siamo stati lì tutti insieme, abbiamo avuto il tempo di scavigliare Saliers il sabato mattina e poi abbiamo giocato la partita, secondo me, mentalmente molto presenti, senza pensare a nulla se non a volerla vincere, altrimenti non l'avremmo vinta. Se avessimo avuto pressione sarebbe stato più difficile. Certo, la pressione secondo me ce l'aveva più Montegranaro, che si vedeva dalle loro facce, si vedeva dal fatto che molti giocatori sono andati al di sotto delle proprie capacità, mentre noi abbiamo tutti hanno reso al massimo, per cui secondo me la differenza è stata quella, non dare a quella partita l'importanza fondamentale. Quella di Brindisi in casa, vinta a grandissima fatica, ci ha dato però molta, una carica emotiva e una capacità di credere nei nostri mezzi, che poi ci ha fatto vincere quella partita lì. Ecco, la partita di Brindisi in cui avete acciuffato la salvezza per l'ultima giornata contro Montegranaro, Terolo giocava a Bologna e delle tre, insomma, una costretta alla cassa, questo meccanismo nuovo di 500.000 euro. Sinceramente è stato, a me non piace questa storia della wild card, però l'abbiamo vista per la prima volta, e giocarsi così tanti soldi, che sono condizionanti fatalmente anche per la stagione successiva, perché una squadra che parte con un meno 500.000, insomma, è un problema poi costruire, sì, al di là del fatto che la società faccia pesare la storia. Sì, considera che sostanzialmente poi fra allenatori e giocatori, detto proprio fra il serio e il faceto, però sì, fra allenatori e giocatori a questa cosa ci pensano poco, cioè nel senso che le 500.000 euro purtroppo escono dalle casse della società, e quindi il giocatore vuole semplicemente raggiungere il risultato sportivo. Sicuro. Che poi significa anche per la società non sborsare quei soldi. Giuseppe, Napoli, sì, buongiorno. Sì, salve, buon pomeriggio. Io vi ascoltavo prima e si parlava anche di Lingrir. Ero un tifoso della Carpisa che purtroppo è scomparso, il basket a Napoli, e mi ricordo questo giocatore straordinario. La mia domanda era questa: secondo voi qual è stato il problema principale, o se ce ne sono stati diversi, perché questo giocatore non è riuscito a sfondare nell'NBA? Vi ascolto per rato. Nell'NBA non so, non mi sembra dimensionato per l'NBA. Certamente, Massimo, qui l'equivoco è, io ho criticato, l'ho fatto apertamente molto spesso e lo faccio tuttora, l'ingaggio di Lingrir da parte della Armani, perché secondo me è un giocatore condizionante, è un giocatore molto condizionante, perché è fatto così e perché all'Armani ha modificato degli equilibri magari fragili e precari che c'erano, e si è visto sul campo. Tu stesso hai battuto Milano giocando una splendida partita nel loro momento più buio, forse, però ci ricordiamo il Greer di Napoli, sono passati tanti anni e tante vicende anche personali del giocatore in mezzo, non è più quel giocatore che ricordiamo a Napoli. Sì, sicuramente. Allora, andando per gradi, così rispondiamo anche all'ascoltatore. Secondo me il discorso dell'NBA è legato molto alla competizione, quindi al numero di giocatori del suo ruolo e al fatto che lui, per essere giocatore di NBA, deve avere decisamente di più degli altri, vista la stazza, che non è chiaramente una stazza da giocatore NBA, deve avere molto più talento, molto più affidabilità al tiro, cioè un qualcosa che in NBA è richiesto, e che per esempio Travis Diner è riuscito, perché comunque rispetto a Lingrir ha qualcosa in più nelle capacità di passaggio e soprattutto nell'affidabilità al tiro, non che fosse un titolare clamoroso, parlo di Travis Diner, però aveva qualcosina in più. Lingrir ha costruito secondo me una magnifica carriera in Europa. Il problema è che Lingrir di qualche anno fa è come succede a tanti giocatori che guadagnano i soldi che guadagna Lingrir. Dopo diversi anni che giochi ad alti livelli e avendo guadagnato, come succede a tutti gli uomini, non solo ai giocatori, è chiaro che poi le motivazioni devono essere sempre rinnovate e rinnovabili. Cioè, se giochi sempre allo stesso livello per diversi anni, probabilmente perdi un po' di quello, come dicono a Napoli, la cazzimma. La cazzimma, come no? Che invece a Napoli ha dimostrato di avere. Guarda caso, o forse non è un caso, 14:20 esce questa agenzia con i dati presentati e il pubblico della Serie A che cresce del 3,6%. Buono, perché per il movimento. Ansia di adesso, Anzi, ti giro il monitor così la leggi. Guarda. No, ma ci credevo, avrei creduto comunque. Non sono numeri straordinari, però più 3-6%. L'importante è il trend. Mi sembra che il pubblico della Serie A stia continuando a crescere. Poi stiamo a vedere cosa succede sul fronte televisivo, ma questa è un'altra storia. Perché secondo me, adesso, senza prendere posizioni, lo sport è uno sport che va capito, quindi più tempo gli dai e più esposizione gli dai e più la gente si avvicina allo sport. In questi anni, pochi anni che io ho fatto il professionista, ho sempre incontrato gente che diceva: non avevo mai visto una partita di basket, ma dalla prima che ho visto non riesco a staccarmi dalla sedia. Per cui lo sport propone uno spettacolo, secondo me, di grande livello. È difficile da capire soprattutto alcune regole, cioè nell'entrare nel mondo del basket, ma una volta che ci entri poi non ne esci più. E a mio avviso anche la TV in questi anni ha fatto il suo proponendo un ottimo spettacolo anche dal punto di vista proprio della proposta di quello sport e non solo nel far vedere una partita di basket. Ad esempio, se uno avesse visto Bologna battere Siena lunedì, di questo sport si sarebbe innamorato. Io saluto e ringrazio moltissimo il nostro amico Lino Lardo. Lino, ciao. Ciao, grazie. Ma chi è? Massimo? Sì, sono io. È proprio lui. Grande Massimo, ciao. Ciao Lino. Complimenti. Grazie. Lino, lunedì il capolavoro, mercoledì i saluti e giovedì l'addio. Insomma, si vive di emozioni, perciò. Mi stai dicendo che lo sport è questo? Assolutamente sì, io ai miei giocatori chiedo sempre di emozionarsi, di trasmettere passione, perché se no non ha senso, no? Parlavamo prima di sopravvivenza, prima che dicevate, sì. Parlavate di gente che ha guadagnato, ma se non provi più le emozioni e non trasmetti passione, anche il più grande dei professionisti non può rendere al massimo, perciò è molto importante questo, e le emozioni fanno parte dello sport e ci stanno, ci sono delle emozioni belle da vivere, magari alcune ti deludono, però... Le tue di adesso come sono, Lino? Se non sono indiscreto. Le mie emozioni adesso? Mm. Ma no, contrastanti, ma sono sereno, però, perché come ho sempre detto, onorato di essere stato seduto sulla panchina della Virtus, di partecipare a un progetto di crescita di questa società, dei giovani. È un momento dove non tutti forse hanno capito che la Virtus, al di là del nome che porta, però è un momento dove lavora sui giovani, ha diminuito il budget negli ultimi anni e si lavora in quel senso, perciò sono contento di aver fatto parte di questo progetto. Mi dispiace chiaramente di non averlo potuto portare a termine o comunque di continuarlo, però serenamente, perché dal mio ultimo colloquio con Sabatini ne siamo usciti bene, consapevoli che lui mi ha dato molto e io penso di avergli dato altrettanto. Ma non era già tutto deciso, o sì, Lino? Ma forse sì, ma io non lo sapevo, sì. Però io ho lavorato sempre, devo dire che ho sempre lavorato serenamente, almeno dal punto di vista dal rapporto che ho avuto con Sabatini, sempre sereno, tranquillo, ma veramente mi ha dato sempre sprint, modo di anche nei momenti difficili di continuare, di portare avanti le mie idee. Se prima era tutto deciso, questo sicuramente non lo posso sapere, però io ho dato il massimo fino alla fine, penso che nessuno questo lo può negare. Massimo, fa l'allenatore così, insomma. Beh, sì, o no? Sì, sì, ma secondo me io, ascoltando le parole di Lino, sono piacevolmente, come dire, colpito, perché secondo me, conoscendolo poi abbastanza bene, quello che tu devi prendere dalla professione dell'allenatore è appunto le motivazioni e le emozioni che ti dà. Perché quando lo cominci a fare di professione spesso prendi più tramvate piuttosto che essere felice del tuo lavoro, e quindi secondo me è vero, quando finiscono i percorsi comunque tutta l'emozione che tu hai ricevuto, hai dato con i tuoi giocatori, con la tua società, avendo raggiunto anche secondo me degli ottimi risultati rispetto al gruppo che aveva la Virtus, non puoi essere che contento. Il dispiacere di lasciare un progetto, ma la consapevolezza di aver fatto bene, quindi probabilmente ti capita qualcosa di meglio. Se non ti capita, vuol dire che comunque prima o poi arriverà. Il karma è positivo. Insomma. Il karma deve essere positivo. Il karma è positivo. Lino, sai, dopo che hai battuto Siena, adesso siamo qui tutti a interrogarci, io, Kanch, Dan Peterson prima, che magari la incontrerà. Ma Siena è battibile in una serie lunga, sì o no? Avete aperto una nuova strada? Beh, insomma, penso che abbiamo dato qualche speranza, anche perché noi abbiamo battuto Siena, e bisogna anche ricordare che in gara 2, magari dimenticandoci gara 1, ma in gara 2 abbiamo avuto potevamo avere la palla anche del sorpasso, perché sì, c'è stato un fallo molto molto dubbio a 20 secondi dalla fine di schiata Moss, e con la palla in mano nostra, perciò voglio dire, sicuramente diamo speranza a chi la incontrerà nel futuro, anche se chiaramente poi ha giocato 3 partite con un roster di assoluto livello, e la quarta hanno messo dentro Jaric e Einstein, che erano fuori, perciò in una serie lunga penso che sia difficile, però non so se sono stanchi o meno, ma il fatto che noi li abbiamo messi in difficoltà, al di là della mostruosa prova delle nostre mostruose prestazioni nostre, anche direi in gara 4, perché da meno 25 siamo certo. arrivati con la palla del meno 6 in mano, non so, li ho visti comunque, mi sembra che in campo non avevano sempre la stessa sicurezza di sempre, perciò io credo che sfruttando questo momento, squadre adesso come Treviso, che sicuramente sono più lunghe di noi, anche più fisiche di noi, e poi chissà in finale, sicuramente possono provare a rompergli le scatole, a dargli fastidio, però rimangono chiaramente, nettamente i grandi favoriti. Dino, adesso magari trovi un venerdì per venirmi a trovare qui a Milano, eh? Beh, sai che Milano comunque, a proposito di tramvate che parlavo, che però volevo dire anche a Massimo che sì. come che poi lui ha chiaramente ha ribadito, in tutte le, magari nei momenti di amarezza o di esperienze magari che possono al momento sembrare negative, invece bisogna sempre ricordarsi anche tutti gli aspetti positivi, perciò tutti quelli che poi mi dicevano ma Milano come è finita male, io invece come posso parlare di Bologna, anche per me Milano è stata una esperienza straordinaria, perché finale scudetto in un anno dove mi chiedevano di entrare nei playoff e poi in un anno dove non era così negativo, vabbè, c'è stato l'esonero, ma ho potuto giocare quasi tutto il girone di Eurolega e ho avuto dei buoni rapporti con alcuni giocatori, perciò voglio dire, ci sono sempre dei motivi, e poi aver fatto parte anche del progetto della prima era Armani, certo. Perciò ci sono anche momenti, perciò Milano comunque rimane sempre un bel ricordo e morale torni volentieri. Morale torni volentieri, ci conto. Lino, grazie, un abbraccio. Grazie un abbraccio. A voi, ciao, buon lavoro. Lino Lardo, questo Massimo Cancelliere resta qui con me, sentiamo la borsa e poi torniamo. 800 24 00 24, questo non è lo sport, è quello di Sabatini, scrive Max da Bologna. Sarà Palla Spicchi. Torniamo insieme, sempre qui con me Massimo Cancellieri, e non so perché Joe da Varese mi scrive questo messaggio: la sensazione che dai è che Milano sia già in finale, tutto lecito, ma chissà perché il giocattolo di coach Trink non ti ispira fiducia. Ma mi ispira fiducia, lo dico dal primo minuto della stagione, anzi se volete faccio anche un pronostico, io vedo Cantù in finale dopo 5 partite. Questa è roba mia, Questa è roba mia. E dall'altra parte vedo Siena in finale, ma Treviso che non resta all'asciutto. Perché Treviso a me piace, è cresciuta molto in questi playoff. Ha giocato la prima partita vinta da Avellino, al di là di Gentile Montejunas, che sono la vera grande cosa nuova, credo, di questi playoff, per nostra fortuna, almeno per quanto riguarda Alessandro Gentile. Beh, mi sembra che Treviso sia cresciuta molto, molto, molto, molto. Sì, loro hanno, secondo me, la stagione l'hanno svoltata quando hanno giocato le finali di Coppa, anche se non hanno avuto il risultato sperato, però sia nella parte precedente le finali, sia dopo un piccolo periodo dove hanno perso a Teramo, comunque hanno acquisito un'altra consapevolezza di una squadra di fascia alta, cosa che invece al girone di andata non ce l'avevano, avevano molti up and down legati anche secondo me alla gioventù. No? Di alcuni dei loro giocatori, Stefano, soprattutto Gentile, Montejunas e Markovic, però a mio avviso poi hanno aggiustato le cose, sono allenati bene, perché Repeci lo conosciamo tutti, è un allenatore molto valido soprattutto con questa tipologia di gruppi, e quindi poi sono diventati solidi, e secondo me sarà, se Siena li affronta come se affrontasse una squadra di Eurolega, probabilmente se ha il cinismo che spesso ha dimostrato di avere, allora magari mettono in seria difficoltà, però se gioca come sta giocando ultimamente Treviso, è una squadra che gli può rubare delle partite, sì. Mentre Milano Cantù è molto equilibrata, ma Cantù tutto l'anno ha dimostrato una solidità impressionante, sì, per sì, cui sì, sarà difficile. Cantù è difficile da battere per chiunque. Poi, puoi giocare al Pianella in una semifinale, in un derby con Milano, te lo regalo, l'ambiente. Ma io ho già visto gara 1 sì, con Varese, che è un altro derby di quelli sentiti, e Pianella, obiettivamente, per parlare col tuo, col tuo vicino ci vuole il megafono. Vicino, no, via SMS. SMS. Sergio Lodi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, ricollegando quello che stavate dicendo a proposito di Cantù, sì, ma non vi sembra che dalla stampa, dagli addetti sia sottovalutata, o perlomeno che un'anomalia sia fatta passare come una cosa normale, una cittadina con degli stranieri non particolarmente di nome, con un budget limitato, un palazzetto al limite del regolare, riesca a arrivare davanti alla grandissima Milano, alla stupefacente. No, però attenzione Sergio, questa non è una storia di questi giorni, questa è una storia che ci porta a scudetti, a Coppe dei Campioni, cioè la dimensione di Cantù cestistica è questa, perché la storia della pallacanestro italiana insegna come una città piccola con un palazzetto ai limiti del credibile, soprattutto nel 2011, e qui sappiamo la vicenda che c'è dietro questo palazzetto, però Cantù è una grande piazza del basket italiano, quindi poi sul fatto budget limitato certamente, però quest'anno il budget non è stato poca roba, perché sono stati confermati i giocatori che l'anno scorso avevano fatto bene, e Coach Cancellieri sa meglio di tutti, io credo, come sia difficile trattenere chi ha fatto bene in un club come Cantù. Dunque, io non sottovaluto proprio niente, cioè Cantù è una splendida costruzione, una splendida architettura che finalmente è tornata a rispecchiare la sua storia, questa è la mia sensazione, quindi non sottovaluto proprio nulla. No, però si dà già per scontato se Milano batterà 3-0, 3-1 Cantù. Sì. Milano batterà 3-0, 3-1 Cantù. Secondo me perde 3-2 Milano. Secondo me perde 3-2 Milano, l'ho detto prima. Secondo me la favorita di questa serie è Cantù. Io sono, ma è soltanto un pronostico e non ne indovino uno dal 74-75. Quindi non conta nulla. Però in questo, la classifica finale della regular season, secondo me, dice totalmente la verità. Cioè, Cantù è la seconda miglior squadra italiana alle spalle di Siena. Sarei curioso di vedere una serie finale Cantù contro Siena. Secondo me va a finire in maniera un po' diversa da quella della semifinale dell'anno scorso, questo per intenderci. Cantù è cresciuta ancora, ma questo, ripeto, è solo il mio pensiero, sono curioso di sapere anche quello di Massimo Cancellieri. Per quanto riguarda l'aspetto di non gli siano riconosciuti i meriti, ecco, secondo me è una cosa che è data per scontata, appunto, sia per la storia sia perché negli ultimi due anni Cantù ha mostrato di stare su questi livelli, okay? Quindi come se gli fossero già stati riconosciuti, senza dimenticare che il loro general manager e il loro allenatore per due anni di fila dagli addetti ai lavori, quindi sì, non dai tifosi, sono stati votati allenatore dell'anno e dirigente dell'anno. Quindi questa è la più grande manifestazione, secondo me, riconoscimento del loro valore. E poi la società di, secondo me, fra gli addetti ai lavori quantomeno si parla tanto invece di Cantù come nuovo progetto, cioè di come la proprietà insieme al loro presidente, anche allo staff tecnico, diciamo la parte tecnica, ha riorganizzato la società affinché questa prosegua su tre binari distinti, amministrativo, e manageriale e tecnico, che però seguono la stessa direzione e stanno facendo, secondo me, un capolavoro. E secondo me il fatto del budget, secondo me, io non conosco prezzi né non mi informo, preferisco di no, altrimenti ti viene da depressione. Ma quello che so è che questi giocatori qui, secondo me, per rifirmare in un progetto del genere è difficile, ma non difficilissimo, tenerli, perché capiscono che è una sorta di sinergia, cioè fra il gruppo dei giocatori e la società, che insieme portano Cantù a che è un po' massimo quello che è successo a Siena. Sì, sicuramente. Perché c'era gente, McIntyre prima di tutti, che dice: ok, posso andare in Grecia a guadagnare il doppio, però sto qui perché qui ci credo, perché qui so com'è, perché qui i soldi li prendo di sicuro. Esatto. Per tanti motivi, però dice: mi avete convinto, no? Per tante componenti. È un modello assolutamente all'avanguardia di gestione e di società, ed è un modello che funziona. È un modello che secondo me dovrebbe anche essere seguito, e quindi mi permetto di dire che all'interno, fra gli addetti ai lavori, questo viene riconosciuto e viene anche ammirato. Ecco. Flavio Tranquillo, buongiorno. Ciao Flavio. Buongiorno, buongiorno a voi. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Bene, bene. Playoff, tutto sotto controllo. Telecronache, superstar che vengono a fare la telecronaca con te, tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. È passato adesso Marco Meninelli qui davanti proprio. Sì, l'ho visto prima, dagli schermi. Senti, io ho un messaggio che ti giro di Beppe da Vicenza. Dallas Miami, il buono contro il cattivo, l'impegno e la coesione di squadra contro lo strapotere fisico e tecnico. L'America si prepara a tifare contro i Big Three, o forse sarà l'occasione per The Redemption. Beppe da Vicenza. O forse sarebbe meglio non dover necessariamente semplificare tutto in un buono contro un cattivo, perché questo è un po' problematico, almeno per come la vedo io, perché la vita per fortuna è più complessa. È chiaro che ci sono degli elementi in cui mi riconosco, però per forza tutto buono da una parte e tutto cattivo dall'altra. A me non entusiasmo con rispetto per qualsiasi opinione. Palla spicchi. Dunque, per epilogare, Miami-Dallas sarà la finale NBA nella notte. Chicago era praticamente sul 3-2, con l'ultimo quarto da giocare, 75-63, a tre minuti dalla fine, poi ci sono stati Dwayne Wade e LeBron James che hanno detto che non era così, che hanno ribaltato la partita e hanno portato Miami in finale con Dallas. Però, Flavio, io ti dico la verità, è sempre una mia sensazione, però è difficile non tifare per Wunder Dirk in questo playoff, perché ha raggiunto dei livelli francamente impensabili, francamente assoluti. Sono d'accordissimo sui livelli assoluti, forse anche impensabili, perché è partito già da un livello talmente alto che migliorare così tanto rispetto a quel livello alto è veramente una cosa per Tedeschi, lo dico nel senso più positivo del termine, però io non riesco a tifare, non ce la farò, l'ho fatto male io, riesco ad ammirare tantissimo dei snobisti, non riesco a non ammirare LeBron James, che è un campione assolutamente straordinario, anche se dovesse perdere la finale, non riesco a non ammirare Rose e Durant, che sono due ragazzi che sono già molto più in là di quello che dovrebbe essere il loro naturale grado di sviluppo, ma naturalmente non hanno preso tutte le facciate che hanno preso Wade, Nowitzki e LeBron James, e quindi hanno pagato anche un po' questo nei playoff. Ammiro tutti i grandi, non vedo perché devo sceglierne uno a scapito degli altri. Sì. Io voglio fare ancora una domanda a Massimo, partendo da Massimo Cancellieri come allenatore. C'è un giocatore che mi fa venire la rabbia vera, ed è Russell Westbrook, no? Playmaker che dovrebbe servire il braccio armato di Durant. È un giocatore che ha un talento mostruoso, che però spesso vedo giocare a questi livelli, a livelli di finale di conference, come fosse a New York a fare 3 contro 3, cioè alla voce playmaking e selezione delle soluzioni. Sì, ma adesso, senza togliere lo spazio a Flavio, che sicuramente se NBA è ferratissimo, e poi decisamente più di me, secondo me per capire certi giocatori spesso non è sufficiente vederli soltanto giocare o vederli soltanto quando sono arrivati, ma capire qual è stato il loro percorso, soprattutto nel college, da dove arrivano, da dove hanno giocato, con chi hanno giocato. Ecco, nel caso di Westbrook mi limito semplicemente a dire che probabilmente già dal passato si riesce, già da dove esce, a dove è uscito come college, si riesce a capire del perché magari di certe situazioni. Poi dipende anche dalla sua storia personale, dipende, cioè i giocatori è giovanissimo, ha un talento pazzesco, sì. Però lo vedi fare delle scelte che, insomma, io fossi un allenatore non rincorrerei con la mazza mi permetto di dire che sostanzialmente non è solo lui che fa delle scelte. Tu dici, hai avuto Edgar Sosa. Ma Edgar Sosa è l'ultimo di quello di cui volevo parlare, sì, però sì. Cioè, sono tantissimi per il loro modo di giocare in generale, che spesso puoi vederli giocare per tre quarti e mezzo insieme alla squadra, all'interno del sistema, e poi quando c'è il clutch moment, molti di loro, chi può farlo, LeBron James, chi non può farlo, altri, sì, e cominciano a giocare per soluzioni personali e per decidere la partita. Questo succede e anche un po' fa parte anche un po' della cultura sportiva di quel paese, secondo me. Flavio. Sì, assolutamente. Io credo che il punto su Westbrook sia questo. se tra, faccio un numero di riferimento, 3 stagioni è ancora così, allora veramente c'è un problema serio. Se invece è una fase di crescita, tutto sommato è una fase che si può spiegare rispetto a un giocatore che non nasce come LeBron James o come Wade con un talento talmente abbaccinante da essere la stella fin dall'inizio. Nasce con un eccellente talento fisico, ma senza essere una possibile superstar. Diventa un giocatore da All-Star Game con molta ostinazione, con molta personalità, e riuscire a 22-23 anni a incanalare perfettamente la personalità quando è così debordante è molto difficile. Quindi se questa è una fase, secondo me è assolutamente comprensibile, posto che resta che le scelte sono non molto discutibili, senz'altro discutibili. Se però poi ci dovesse essere l'evoluzione, allora credo che potremmo vederla appunto in questo tipo di situazioni. Sì, crucio può essere non riuscire a spremere con un playmaker di questo tipo tutto quello che uno, un mostro come Durant può dare, perché immagino con uno che riesce a dare tempo alla squadra, non sto a dirti Steve Nash, però con uno diverso, insomma. La chiave di questi playoff è non esistono gli individui nel basket, è ovvio che esistono, ma non vinci con gli individui, vinci con gli individui all'interno di un certo contesto. Ci sono state sicuramente edizioni dei Dallas Mavericks più talentuose, ma semplicemente la squadra di inizio stagione dei Mavericks con Bobois e Butler era più talentuosa. Il problema è che questa squadra ha più senso per esaltare le caratteristiche di Nowitzki e per giocare come una squadra, ovvero sia unita. Anche qui è ovvio che Durant è super straordinario, non possiamo però solo dire è un problema di Westbrook, posto che Westbrook ha tantissime colpe in questa eliminazione di Oklahoma City. È un problema, credo, più vasto, e che poi si traduce nel fatto che, per esempio, Miami, dopo tutte le facciate prese da solo da Wade, da solo da Bosch, da solo da LeBron James, li ritrova tutti e tre assieme, e la chiave è: sono 3 superstar assolute che fino al giorno prima giocavano solo una metà campo, che adesso ne giocano 2, perché sono i 3 assieme e possono fare la staffetta in attacco. È sempre la somma che fa il totale. Totò era l'unico che avesse capito tutto prima di tutti noi. Grazie Flavio. Buon lavoro. Ci sentiamo di notte, non per metterci d'accordo per uscire, ma per le telecronache NBA di questa finale che inizia martedì a Miami. Ti piace il ciclismo, Canci? Ma l'ho seguito nel passato di più perché ho moltissimi amici di Teramo che seguono il ciclismo, che hanno seguito i mondiali, per cui loro mi avevano un po' costretto. Ora che finalmente sono solo, libero, no, non vai in bicicletta, insomma, come guido no, guido la Vespa io. un po' più comodo, amici, eh. Sì. Cosa dici? La risalita è meglio andare in Vespa che non sì, in bicicletta. Sì, sai usare la frizione. Tanto per dirla alla catalano. Senti, un'ultima cosa, adesso ci colleghiamo con il Giro d'Italia per sapere che succede oggi, però parlavamo di giocatori che devono progredire, Westbrook, il paradigma di questi giocatori. Ce n'è uno che se progredisce ancora un po' finisce per giocare magari dall'altra parte del mare, Alessandro Gentile. Lui quest'anno secondo me ha trovato la chimica giusta, la chimica, diciamo, della sua vita cestistica, cioè un allenatore in grado di allenarlo, che è una cosa importante nel senso anche come personalità e come esperienza cestistica, e la sua volontà probabilmente quest'anno di essersi messo a disposizione di un allenatore che veramente ha creduto in lui e che lo ha fatto giocare, l'ha fatto giocare tanto, e anche nel girone di andata, quindi non solo adesso, cioè, quando lui sta giocando bene, gli dava delle responsabilità. Quindi secondo me è stato un interscambio che al ragazzo, che è pieno di talento, secondo me, a livello italiano, faccio fatica a trovarne un altro uno con questo talento. Secondo me non c'è. Per senti, cui... ti porto un attimo al Giro d'Italia perché siamo quasi in chiusura. Voci dal Giro. Credo che ancora non sia successo nulla, ma cosa succederà oggi? In 30 secondi ce lo dice per Augusto Stagi. Ciao. Ma al momento sta succedendo poco, c'è una fuga di 3 uomini col giovanissimo neoprofessionista Matteo Rabottini, uno dei ragazzi, un abruzzese classe 87, il suo primo anno da professionista, il suo primo anno al Giro d'Italia, insieme a Jérôme Pinot e a Lars Bak, che sono in fuga, il danese Lars Bak, e stanno cercando di fare, diciamo, il vuoto alle loro spalle. Il gruppo per il momento procede tranquillo, siamo a 74 km dal traguardo, brutto tempo, nuvolone, nebbia e pioggia, difficoltà. difficoltà anche per Gianni Bugno, oggi è in difficoltà perché lo sappiamo, lui segue il Giro d'Italia come elicotterista, come pilota. Grazie Piero Augusto, a più tardi nei GR Serali per il nome dell'assassino di giornata, del vincitore di tappa, e poi dopo il GR delle 19 per fare il punto. A dopo. Voci dal Giro. A me resta giusto il tempo per salutare e ringraziare Massimo Cancellieri, che oggi insomma è venuto a trovarci per la prima volta, e conto che non sia l'unica. Adesso vai in vacanza, poi torni. Ma la vacanza è cercare di giocare adesso che abbiamo finito il campionato e che quindi si può programmare già da maggio. Stiamo cercando di muoverci sul mercato di modo che possiamo anticipare l'ondata, perché poi quando entri nell'onda, dove sostanzialmente si fa tutto a suon di dollari o di euro, in quel momento lì tu cominci a far fatica. Invece adesso è il momento in cui una società come la nostra deve lavorare, e stiamo lavorando tanto. Poi arrivati al centro dell'onda, molti faranno surf e noi aspettiamo, magari siamo ancora sulla tavola e surfiamo alla fine. Insomma, non vai a fare il bagno con Allegri a Livorno, capito? No. Grazie Massimo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie anche a Franco Piantanini in redazione, Mauro De Angeli in regia. Ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 5. Tutti presenti, vi aspetto.